siamo i genitori e i bambini delle scuole Betty 2, Betty 3 e del nido che hanno sede in Montagnola. Sono più di 200 bambini che vanno a scuola all'interno del parco, e il comitato Free Montagnola, che è un comitato di cittadinanza che è nato circa un anno fa proprio per rivitalizzare il parco. E non siamo quelli che vivono il parco, cioè siamo quelli che quotidianamente stanno al parco con i propri bambini, che lo vivono, che lo amano, ma che ne vivono anche le difficoltà e le preoccupazioni, nel senso che noi sappiamo quello che può essere, che è la Montagnola, cioè può essere per i nostri figli un luogo di incontro, è un posto molto bello dove si danno appuntamento mentre escono da scuola, bambini di 4 anni che si danno appuntamento e che che programmano il loro pomeriggio, quindi certo. Per noi è una grande ricchezza, è una grande risorsa, vorremmo che lo fosse anche per la città, però troviamo questo parco abbandonato a se stesso e a noi, che siamo insomma quelli che cercano di rivitalizzarlo, abbandonato dalle istituzioni e preda di situazioni di forte marginalità che a volte sfociano anche in spaccio, delinquenza, violenza, che è molto aumentata negli ultimi tempi. Di fronte a questa situazione vogliamo proporre un'idea di parco, che è quella insomma che, ripeto, che noi viviamo quotidianamente, e che l'idea di un parco come luogo di socializzazione, luogo di incontro, un parco accogliente e sicuro. Ci teniamo molto a tenere insieme queste due parole: sicurezza e accoglienza non possono essere separate tra loro. Un parco è sicuro se è un parco vissuto da tutti, se è un parco in cui la marginalità viene presa in carico con progetti organici che se ne occupino. Un parco è bello e vissuto bene se viene curato anche. Ad esempio, una cosa che manca in Montagnola, è una delle tante cose che mancano, è una fontana funzionante. Abbiamo una fontana vuota da anni che diventa soltanto un luogo di rifiuti, abbiamo una zona giochi che non è degna di tal nome, insomma ci sono tutta una serie di interventi sia strutturali sia più sociali che noi chiediamo vengano presi in carico. Quali sono quindi gli interventi e i modi soprattutto che ritiene operabili allo stato attuale delle cose per la situazione della Montagnola così come oggi la conosciamo? Vorremmo da un lato una risposta organica, quindi una risposta in cui tutti gli attori che in qualche modo si devono prendere cura della Montagnola se ne occupino, quindi che abbia a che fare sia con un discorso sociale che con un discorso di sicurezza che con un discorso di cura, pulizia e risistemazione degli spazi. Quindi questo è un discorso organico che però nella sua organicità, nella sua complessità, magari rischia di perdere di vista quali sono poi gli obiettivi molto concreti e anche materiali che abbiamo adesso. Ci sono alcune cose che anche proprio che noi chiediamo e che pensiamo possano aiutare, e che sono appunto mettere a posto e prendersi cura anche delle strutture del parco, per cui la fontana di cui parlavo prima, che torni a essere una fontana funzionante, una zona giochi che venga messa a posto, ci sono giochi ad esempio che nel momento in cui si rompono non vengono mai sostituiti, che venga resa agibile, che i percorsi vengano resi agibili di fronte alla scuola, proprio di fronte alla scuola da cui escono bambini anche in passeggino, c'è un terreno sconnesso in cui i bambini rischiano di cadere. Quindi interventi strutturali di questo tipo sicuramente aiuterebbero a rendere il parco più gradevole e quindi più vissuto e quindi migliore e più sicuro. Sicuramente è necessario anche, ed viene richiesto anche dalle famiglie, anche dal personale delle scuole, una maggiore attenzione alla sorveglianza, almeno all'entrata e all'uscita della scuola e all'entrata e uscita dei parchi, maggiori controlli, perché lo spaccio è continuo ed è estremamente presente anche vicino alle scuole. Altri interventi sempre che secondo noi potrebbero aiutare in questo senso sono interventi di progetti di inclusione che si prendano cura appunto di delle tante persone appunto ai margini che vivono nel parco, che non necessariamente sono un problema ma che vengono abbandonate lì, magari rischiano anche di entrare nelle maglie di una delinquenza, quindi insomma queste diciamo sono un po' le direttrici su cui chiediamo azione, e ci sembrano alcune delle quali ci sembrano anche possibili nell'immediato, quindi chiaramente alcuni problemi si risolveranno soltanto a lungo termine, ma alcune questioni sono anche abbastanza semplici e concrete. dottorato di grande impatto, l'affermazione che appunto recita: non accettiamo alcuna strumentalizzazione politica. Cosa intendavate? Questa per noi è importantissima, grazie mille di avermelo chiesto, perché avrei comunque affrontato la questione, perché è una cosa che ci sta molto a cuore. Diciamo che nel momento in cui abbiamo anche solo pronunciato la parola sicurezza, ci siamo resi conto che avremmo potuto essere preda di strumentalizzazioni politiche, di chi si fa baluardo della sicurezza, chi usa la paura come strumento politico e unicamente politico, cioè senza poi neanche avere degli effetti concreti. Quindi noi da questo ci vogliamo assolutamente scardinare e affermare con forza quello che noi siamo, quindi una forza cittadina, una forza che chiede, a partire da come vive il parco, quindi a non a partire da presupposti di nessuna parte politica, ma a partire da quello che noi viviamo e da quello che noi vediamo quotidianamente.